La storia è una storia abbastanza lunga, insomma, perché ha una genesi di circa 4 anni fa, dal 2014, quando Finmeccanica, oggi Leonardo, decise di vendere la Breda Menarini Bus. Il governo, insieme, diciamo così, a Finmeccanica, decisero di trovare questa nuova proprietà, che era Industria Italiana Autobus, l'amministratore delegato del Rosso, il quale non era un soggetto, diciamo, industriale di produzione, ma era un soggetto più di attività commerciale, tant'è che lui fungeva un po' il ruolo del commerciale per la Qinglong cinese, insomma, produttrice di autobus a livello mondiale. Dopodiché l'azienda purtroppo negli ultimi 4 anni è stata sempre, come dire, per i lavoratori un vero calvario, perché siamo passati da procedure di cassa integrazione e poi mobilità, ridimensionamento a livello occupazionale, e negli ultimi anni, non essendo lui il titolare, insomma l'amministratore delegato, un industriale, aveva stretto rapporti di carattere industriale con Karsan, quindi con la Turchia, e ultimamente gli autobus venivano prodotti in Turchia, svuotando dal punto di vista della produzione, delle professionalità, anche chiaramente i lavoratori, quindi creando un danno di portata notevole per le persone, ma noi diciamo anche per la città e per la produzione di autobus, perché non esiste in Italia stabilimento in grado di produrre gli autobus, e l'autobus è un prodotto pubblico, è un bene pubblico utilizzato dai cittadini, diciamo, più deboli. Quindi questa è stata, diciamo così, un po' la vicenda degli ultimi 4 anni, tant'è che dopo si sono interessati chiaramente a tutta la vicenda istituzioni, la città metropolitana, la regione, i partiti, perché in questi anni abbiamo fatto assemblee anche aperte, dove il governo di allora, quindi maggioranza PD e tutti i soggetti di carattere politico, hanno potuto essere informati rispetto alla situazione dell'ex Breda Menarini. Nel frattempo è cambiato un governo, se non sbaglio qualche mese fa, insomma questa estate. Il ministro Di Maio se ne era interessato e ha fatto anche delle promesse? Sì, il ministro Di Maio intanto era venuto a fare la campagna elettorale, perché il Movimento 5 Stelle è stato uno dei soggetti che è stato, come dire, partecipe a tutta la vicenda aziendale della Breda Menarini, e quindi in primis hanno fatto la campagna elettorale, e poi è tornato da ministro facendo delle promesse molto importanti, perché erano le promesse che noi in qualche modo ci aspettavamo, perché come sindacato, a livello sindacale, noi auspicavamo sempre che la situazione della Breda Menarini andasse verso, diciamo, la soluzione del polo pubblico, proprio per le cose che dicevo prima, cioè trovare industriali pubblici che potessero in qualche modo riattivare la produzione degli autobus. Per cui il ministro Di Maio, quando è tornato davanti ai cancelli, lui fece questa promessa: lavorerò per la nazionalizzazione della Breda Menarini Bus. Un'ipotesi che rimane sul tavolo oppure no? Ad oggi, francamente, siamo di nuovo in una situazione di grande confusione e vediamo un po' che questo obiettivo via via si sta dissolvendo. Allora, negli ultimi incontri, diciamo circa qualche mese fa, avevamo avuto rassicurazioni dal governo che c'era l'interessamento appunto di Ferrovie dello Stato, di Finmeccanica, perché l'azienda, quella in essere, chiedeva la ricapitalizzazione dell'azienda, e quindi avevamo avuto rassicurazioni, ma qualcosa di più, nel senso che ci dovrebbero essere lettere da parte appunto di Ferrovie, di Finmeccanica, che appunto dimostravano interesse a ricapitalizzare l'azienda. La stessa Invitalia si era impegnata a fare delle valutazioni per creare appunto il polo pubblico. Oggi purtroppo siamo assistendo a una, come dire, un cambiamento radicale, perché purtroppo, diciamo così, l'azienda non è stata ricapitalizzata, Ferrovie ha fatto delle valutazioni che però non hanno dato seguito appunto all'entrata all'assetto societario, per cui siamo ancora più, diciamo, in difficoltà, perché addirittura l'azienda detta le regole dicendo: o fate la ricapitalizzazione entro il 21 di novembre oppure io mi tutelo, e quindi, non riuscendo a pagare gli stipendi, quindi l'azienda ha già dichiarato che i lavoratori non avranno lo stipendio riferito al mese di ottobre, o ricapitalizzate oppure io in sostanza porto i libri in tribunale. Quindi, diciamo così, siamo ritornati ad avere più di una preoccupazione, cioè a questo punto forse è sfumata l'idea del ministro di nazionalizzare o comunque rendere fattibile il polo pubblico. Questa è la domanda che, insomma, ci facciamo. Arriviamo alla giornata di ieri, in cui, se non sbaglio, l'assemblea dei soci ha proprio detto quello che poi leggiamo oggi sui giornali. Insomma, non ci saranno gli stipendi e c'è un rischio concreto di fallimento. Sì, ecco, ed è assurdo, perché vuol dire tenere ancora i lavoratori per l'ennesima volta sotto ricatto. Cioè, è questa la cosa che forse, cioè, nessuno sta, no? Allora, si tengono i lavoratori sotto ricatto rispetto agli stipendi per forse, non so, diatribe di carattere politico o tra azienda, MISE, non so. Cioè, lì i soggetti sono questi, insomma, non si capisce, ecco, perché alla fine devono comunque i lavoratori stare in una situazione sempre di instabilità e non sapere se, appunto, non solo c'è il problema degli stipendi, che è un problema concreto, ma anche rispetto al futuro, insomma, ai loro posti di lavoro. Tant'è, noi lo ribadiamo da tempo, che in questa situazione si rischiano di perdere le professionalità e dopo lo stabilimento non è più in grado di produrre. Poi, quindi, insomma, anche la regione Emilia-Romagna, insomma, la regione ha sempre vigilato su tutto questo andamento, e devo dire che finora quello che poteva fare la regione nella persona del suo presidente, insomma, è stato fatto, ecco. Di quanti lavoratori stiamo parlando, ovviamente tra Bologna e, se sai il dato, insomma, anche tra la provincia di Avellino, e in assenza di commesse cosa fanno questi lavoratori? Allora, intanto parliamo di un bacino di lavoratori tra Bologna ed Avellino che sono circa oltre 300. Allora, per quello che riguarda Bologna, praticamente sono presenti, ma non stanno lavorando, perché gli autobus vengono fatti in Turchia, e da Avellino mi risulta che ci sia la cassa integrazione fino a fine anno. Poi non so. Ricordo anche di come dire, della protesta dei lavoratori di qualche tempo fa, che chiedevano sostanzialmente di poter lavorare. Sì, perché adesso non solo, appunto, c'è questa situazione, ma c'è una situazione anche di grande disagio, perché è evidente che, cioè, non sono i decreti che danno dignità alle persone, è il lavoro che dà dignità alla persona, per cui questi lavoratori sono anche messi in una condizione poco dignitosa, e non è, come dire, è inaccettabile questa situazione, ecco, per loro, per le loro famiglie, insomma. Non... Ecco, voi avete proclamato uno sciopero per giovedì. Noi abbiamo proclamato intanto lo stato di agitazione sia per oggi, domani, e giovedì faremo sì un'assemblea in sciopero aperta dalle 10 a mezzogiorno, e dove abbiamo invitato tutti gli interlocutori che fino adesso sono stati, diciamo, presenti nel tavolo di questa vertenza: la regione, la città metropolitana, abbiamo invitato appunto i partiti, quindi qualche rappresentante del Movimento 5 Stelle, se vuole, insomma, tutti, compresi i giornalisti, che devo dire sono stati fondamentali, insomma, durante questi 4 anni della vertenza. Ci hanno supportato, insomma. Ti faccio una domanda più generale, diciamo, al di là della questione del lavoro, che sicuramente è la più importante, però anche l'oggetto di quello che producevano questi lavoratori è importante, cioè autobus. Si parla di inquinamento, si parla di mobilità, si parla di trasporto pubblico, è veramente impressionante che l'Italia non abbia un'azienda che produce autobus. Esattamente, si fanno investimenti, tra l'altro tutti gli investimenti che vengono fatti da parte delle istituzioni, la stessa regione, tutti quelli che si occupano, diciamo così, di fare investimenti sul trasporto, sulla mobilità sostenibile, lo fanno attraverso anche i soldi pubblici, soldi nostri. Quindi ci deve essere un ritorno ai cittadini, e se vogliamo incentivare appunto la mobilità, e soprattutto una mobilità, diciamo così, sana, che abbia poco impatto ambientale, che sia, diciamo, equilibrata con quelli che sono anche, diciamo così, gli aspetti della salute dei cittadini, bisogna assolutamente che ci sia un impegno a livello istituzionale a far sì che si mantenga un'industria e soprattutto la si rinnovi sull'autobus, che ci siano anche disponibilità economiche per fare ricerca, per fare sviluppo e per fare innovazione. E l'autobus, come ripetevo prima, è un mezzo che utilizzano soprattutto ragazzi, studenti, anziani, persone, diciamo così, che sono la catena solitamente più debole, ecco. Quindi si fanno gli investimenti sulle auto private, facciamo gli investimenti sui mezzi pubblici, sul trasporto pubblico locale. Questo